Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, siamo pronti per una nuova puntata di Obiettivo Salute insieme a voi. È pronto già in linea con noi il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri. Molto molto bene, professor Remuzzi, grazie per essere con noi. Eccomi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Professore, la metto subito al lavoro chiedendole di fare per noi il punto sulla situazione dei vaccini. I centri di ricerca, le università, le principali aziende farmaceutiche stanno lavorando senza sosta, ma quali sono le strade che si stanno seguendo? Beh, ci sono tante strade diverse, ci sono dei vaccini cosiddetti a mRNA, sono più semplici da preparare, la compagnia che è più avanti di tutto in questo è Moderna negli Stati Uniti. Ci sono dei vaccini che si basano su degli adenovirus e quindi utilizzano l'adenovirus per rendere il Covid in realtà il virus che causa la malattia Covid, il SARS-CoV-2, più immunogenico. E poi ci sono una serie di altri approcci, per esempio ce n'è uno che utilizza l'approccio che è stato utilizzato per creare il vaccino per la tubercolosi. La cosa che forse non tutti sanno, è impressionante, perlomeno impressiona a me, è che sono 29 i gruppi farmaceutici che sono in questo momento impegnati nel creare un vaccino e ce ne sono altri 6 che si stanno preparando a farlo. Non solo, ma c'è nel mondo una organizzazione che si chiama CEPI, vuol dire Coalition Epidemic Preparedness Innovation, vuol dire una coalizione di tutto il mondo di persone che si stanno preparando a creare un vaccino. E questa è fatta da charities, per esempio Wellcome Trust negli Stati Uniti e Melinda and Gates Foundation, e partecipa la Commissione Europea. E partecipano dei singoli continenti, per esempio l'Australia, il Belgio, il Canada, l'Etiopia, la Germania, il Giappone, la Norvegia e l'Inghilterra. Ecco, questo per darvi un'idea della impressionante potenza di fuoco di quello che si sta facendo per preparare un vaccino. Professore, centinaia di volontari si stanno sottoponendo alla sperimentazione di potenziali vaccini. Quali sono i vaccini che sono arrivati alla fase di sperimentazione sull'uomo e quali sono i più promettenti? Beh, forse il più promettente è proprio quello che vi dicevo di Moderna, che è quello degli Stati Uniti. Però ce n'è uno estremamente promettente che si sta preparando a Oxford, questo è addirittura più avanti di quello di Moderna, si sta preparando a Oxford con l'impegno dell'Imperial College di Londra, di un'università di Bristol, di Southampton, partecipano anche gruppi di Pomezia in Italia. E, come vi dicevo, questo deriva dall'adenovirus, un virus abbastanza blando che sostanzialmente provoca un raffreddore e utilizza quelle proteine appuntite che ci sono ormai, che le conoscono tutte sulla superficie del Covid-19, quelle che attaccano le cellule, e la scommessa è di essere capaci di isolare queste proteine dal resto del coronavirus e immetterle nell'individuo per provocare una risposta immunitaria. Ci sono però dei gruppi, Johnson & Johnson per esempio, che ce l'hanno già il vaccino, ce l'hanno già in mano e hanno già cominciato a fare degli studi nei volontari. Quelli erano volontari sani, adesso si cercano però dei volontari molto particolari, questa è una questione molto delicata. Perché? Perché si tratta di dare a delle persone o il vaccino o un placebo, quindi una cosa uguale ma che non contiene il vaccino. Non fa nulla. E poi esporre questi volontari al virus e vedere se si ammalano. Questo accorcerebbe enormemente i tempi, perché quando noi parliamo di volontari pensiamo di persone normali le quali prendono il vaccino e poi vedono se questo provoca dei danni. Qui invece si tratta di persone che dopo aver preso il vaccino si fanno infettare col virus per vedere se si ammalano. E naturalmente si tratta di seguire questi volontari molto da vicino per cogliere ogni piccolo segno di infezione il più presto possibile, e poi si tratta alla fine di vedere se chi aveva preso il vaccino va meglio di quelli che avevano preso il placebo. Dopo essere stati infettati. E c'è anche qualcosa, ci sono due cose qua, c'è qualcosa di etico, perché uno potrebbe chiedersi, ma insomma è etico fare questo per insomma esporre un volontario a un rischio, ad un rischio così potenzialmente grave per aiutare degli altri, e questo io penso che si possa risolvere dicendo che lo stesso dibattito etico c'è stato quando si è deciso di fare il primo trapianto. La gente diceva, ma è etico togliere un rene a una persona che sta bene per darlo a un altro che è malato, e non sappiamo neanche se ne avrà vantaggio. Alla fine i medici hanno concluso che c'era irrazionale per farlo, l'hanno fatto, e oggi si fanno al mondo milioni di trapianti che hanno salvato tantissime vite. E l'altra cosa c'è un grado di altruismo in chi accetta di fare questo, ma l'altruismo c'è nel mondo. Il mondo non è fatto solo di persone che pensano a se stessi, è fatto anche di persone che sanno sacrificarsi per gli altri, e questa è una cosa secondo me molto bella. E poi bisogna anche dire che in queste condizioni, dal momento che questi vaccini sono stati preparati prima nei topi, sono stati fatti gli esperimenti sulle scimmie, che ribadisco per l'ennesima volta sono fondamentali, se non ci fossero le scimmie noi non potremmo preparare un vaccino, quindi tutti noi aspettiamo con ansia questo vaccino, tenete conto che senza scimmie non si arriva da nessuna parte. Dal momento che sono stati provati nei topi, sono stati provati nelle scimmie, sono stati provati nei volontari sani, il grado di rischio è piccolo, ma anche le possibilità che questi funzionino e quindi il volontario sano, quando sarà infettato, non si ammali, è molto alta. Quindi rischio piccolo, probabilità di successo molto alto, e naturalmente questo sì che accorcia i tempi, perché sennò si dovrebbero prendere delle popolazioni, a qualcuno dare il vaccino, ad altro dare un placebo, e poi aspettare che gli uni e gli altri un bel giorno si ammalino. Quindi questa è una sorta di scorciatoia, professore. Una scorciatoia straordinaria, che implica però che qualcuno si presti a essere iniettato col virus dopo aver preso il vaccino. E voi mi direte, ma non ce ne saranno delle persone così? O ci sono molte persone che hanno detto, io sono pronto, lo voglio fare. E questo è stato per Moderna, è stato per il vaccino di Oxford. Ci sono delle persone pronte a, tra virgolette, sacrificarsi per noi. Poi il rischio, abbiamo detto, è molto calcolato, questi volontari saranno seguiti molto da vicino, la malattia, se si dovesse sviluppare, si coglierà immediatamente, e questa malattia, se la si coglie immediatamente, non è così difficile da curare. Professore, le chiederei un'ultima battuta sui tempi. Mediamente sono necessari 1-2 anni per arrivare alla fase di sviluppo di un vaccino, poi vanno considerati quelli per la produzione su larga scala e i relativi costi. Professor Remuzzi, che previsioni si sente di fare? Ecco, quello che ha detto lei è esattamente il problema. Il vaccino c'è. Alcuni volontari sani sono già stati iniettati col vaccino. I test sugli animali sono già stati fatti. Il problema è la produzione su vasta scala, perché parliamo di un vaccino che si rivolge in teoria, data la diffusione della pandemia, a miliardi di persone. Quindi produrre per miliardi di persone è un processo lungo, e poi si tratta di distribuirli. I costi saranno alti, ma non insopportabili, se ci sarà un grande sforzo, come sembra esserci, della comunità internazionale. E questo gruppo che si chiama appunto CEPI, questa coalizione per prepararci alle epidemie, è molto consapevole di questo enorme sforzo finanziario, ma è stato fatto anche per la poliomielite, è stato fatto per il vaiolo, si farà anche per questo, e questo è straordinario, perché una particella così piccola, un virus così piccolo, riesce a suscitare una solidarietà globale così straordinaria. I tempi però di preparazione fisica, cioè di averne abbastanza fialette distribuite nelle farmacie di tutto il mondo o alle organizzazioni di sanità di tutto il mondo, e soprattutto farle arrivare dove devono arrivare, pensate a certi posti dell'Asia, a certi posti dell'India, a certi posti dell'Africa, diventa veramente una sfida. Io credo che questa sfida, il vaccino è pronto, i primi risultati li avremo molto presto, secondo me addirittura a ottobre, se questi volontari manterranno la promessa di essere disponibili, ma sono sicuro. E poi quanto tempo dobbiamo aggiungere? Più di un anno per poterlo distribuire. Certo, arrivare in tutti i paesi, in tutti i villaggi del mondo, quello è difficilissimo, fare una previsione ci potrebbe volere di più. Certo. Professor Remuzzi, tanto noi ci sentiamo presto, sicuramente, nella prossima settimana. Intanto io la ringrazio per la sua disponibilità, per la sua chiarezza e per essere intervenuto a Obiettivo Salute insieme a voi. Grazie professore. Grazie, grazie a voi. E noi continuiamo a parlare di ricerca, una ricerca di cui abbiamo parlato già la scorsa settimana, una ricerca che può aiutarci e suggerirci spunti, consigli pratici per affrontare questo periodo di isolamento, valorizzando anche, imparando a utilizzare e sfruttare le risorse che ciascuno di noi ha a disposizione, anche per vivere meglio, nonostante le fatiche che queste giornate, queste settimane, ci hanno imposto. Come vi dicevo, la settimana scorsa abbiamo parlato della ricerca del centro di ricerca Engage Minds Hub dell'Università Cattolica, che non solo ha messo in luce come ci sentiamo in questo periodo di emergenza, ma anche ha generato una sorta di vademecum di consigli e indicazioni pratiche per diventare engaged e quindi aiutarci ad allenarci e attrezzarci a vivere meglio queste settimane di convivenza, ma anche per affrontare preparati la fase 2. E allora è tornata a trovarci la professoressa Gwendalina Graffigna, che è professore di psicologia dei consumi e della salute e direttore del centro di ricerca Engage Mind Hub dell'Università Cattolica. Professoressa Graffigna, noi siamo pronti. Buongiorno, ben ritrovati tutti. E qua ci stiamo dando da fare, ci state allenando. La scorsa settimana abbiamo affrontato la prima lettera del vostro vademecum, la E. Abbiamo lavorato sull'empatia. Oggi lavoriamo sulla lettera N. Professoressa Graffigna, mi lanci la lettera e a che cosa corrisponde, poi facciamo una piccola pausa e ritorniamo insieme, perché qua bisogna lavorare e attrezzarci. Professoressa, N mi verrebbe da dire come Nicoletta, ma e invece mi non è così. Deludermi, Nicoletta, ma è navigare le giuste informazioni. Allora, siete pronti? La professoressa Graffigna rimane con noi. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito insieme. A tra poco. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Obiettivo Salute. Siamo tornati pronti per l'allenamento, lo faremo in queste settimane. Siamo partiti la scorsa settimana insieme alla professoressa Gwendalina Graffigna, che è professore di psicologia dei consumi e della salute e direttore del centro di ricerca Engage Minds Hub dell'Università Cattolica, che ci affiancheranno in queste settimane proprio per aiutarci a diventare più competenti, a trovare le risorse e allenarle per affrontare la ripresa. Professoressa Graffigna, eccoci, N allora. Sì. Ecco. Dicevamo navigare le giuste informazioni. La volta scorsa abbiamo parlato dell'empatia, che anche il professor Remuzzi ha un po' sottolineato, no, l'altruismo. Adesso le informazioni, perché non solo dobbiamo essere capaci di identificare le fonti più adeguate attendibili delle informazioni che troviamo, come Radio 24 e Obiettivo Salute, non a caso siamo qua, ma anche perché dobbiamo psicologicamente imparare a gestire meglio quella che io chiamo la nostra bulimia informativa, cioè una sorta di impulso un po' incontrollabile che tutti noi stiamo vivendo in questo momento, perché siamo alla ricerca quasi spasmodica di risposte, risposte, risposte. Il problema è che oggi più che risposte abbiamo delle ipotesi, abbiamo degli spunti. Ecco, e quindi diventare un po' capace anche di riflettere, di mantenere uno spirito critico, ma anche un po' di riflessione su quali sono i motivi e gli impulsi che ci portano a cercare delle risposte in questo stato di incertezza, ci può aiutare a discriminare poi meglio le informazioni. Professoressa, nel nostro lavoro, nel nostro percorso di allenamento che faremo proprio insieme al vostro centro di ricerca, in cui gli psicologi si stanno mettendo al lavoro anche per noi, per supportarci, per allenarci, vogliamo naturalmente tradurre queste indicazioni in consigli pratici e poi vorremmo anche capire, e lo faremo, se ci stiamo allenando adeguatamente. Professoressa, dalla teoria alla pratica, che cosa possiamo fare quindi? Allora, anche oggi vi lancio un esercizio facilissimo, però proprio per diventare un pochino più consapevoli di quali e quanti messaggi riceviamo oggi sulla salute e sulla prevenzione del Covid-19. Per cui io vi suggerisco, almeno per un giorno, di provare a farci attenzione, di provare proprio a mapparli, a scriverli su un foglietto contandoli, prendendo un appunto e controllando non solo il contenuto ma anche la fonte. E poi alla fine della giornata proviamo a guardare questi appunti di quanti messaggi, quante fonti, quali sono le contraddizioni che vediamo, quali no, perché sarà veramente stupefacente. Però attenzione, ricordiamoci che qua, parlando di fonti dell'informazione, non parlo soltanto delle fonti media, ma parlo anche dei messaggi degli amici, parlo anche di WhatsApp, parlo anche della chat, del calcetto, del balletto, della classe. Sì, certo. Perché anche quello è comunque una fonte di bombardamento di informazioni. Alcune informazioni assolutamente utili, altre un po' più sbianti. Allora, noi facciamo il nostro compito. Nel frattempo, e questo lo voglio dire agli amici che ci stanno seguendo, voi lavorate per noi, ci allenate, ci supportate, ci sostenete, professoressa Graffigna. Insomma, quasi qua, ci darete anche un voto. Vi diamo un voto, ma vi diamo uno strumento per monitorarvi. Quindi da domani sulla pagina di Obiettivo Salute, sulla pagina nel nostro centro di ricerca, potrete fare un brevissimo test, un test validato scientificamente ma anche un po' semplificato, che vi può dare un feedback di come state vivendo questa nuova situazione. E poi, fantastico, lungo tutto il concorso arriverà un patentino. Magnifico, allora noi siamo pronti, dai, forza. Professoressa Graffigna, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Le auguro una buona giornata, ed è arrivato il momento di incontrare il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Erzegovesi, direttore del Dipartimento dei Disturbi Alimentari del San Raffaele di Milano. Buongiorno, dottor Erzegovesi. Buongiorno Nicoletta, eccomi. Allora, dottor Erzegovesi, abbiamo parlato di questi tempi molto di alimentazione e difese immunitarie. Mi chiedo se si può fare qualcosa a tavola anche per migliorare la nostra resistenza allo stress. Assolutamente sì, c'è una disciplina... Ci contavo. Molto... ma insomma, noi ci siamo. C'è una disciplina molto giovane che si chiama psichiatria nutrizionale, cioè... Finalmente si parla di quanto quello che mangiamo non va semplicemente a migliorare, come diciamo spesso, la nostra salute fisica, ma anche la nostra salute psichica. Quindi consideriamo i dati scientifici più recenti, danno indicazioni sia sull'umore, quindi sul combattere la tristezza, sia sulla resistenza allo stress, quindi il poter avere un sistema di difese, di resilienza al meglio possibile, sia anche su combattere l'ansia, quindi assolutamente, come dire, pronti a poterne parlare, a poter dare qualche suggerimento. Mi piace, dottor Zegovesi. Allora, che cosa mettiamo nel nostro piatto? Insomma, nel piatto deve essere un piatto grande, perché chiaramente la fibra e quindi questa specie di comunicatore interno tra intestino e cervello deve essere presente, quindi la fibra occupa spazio e occupa volume. Il primo consiglio consiglio che mi sentirei di dare, così giusto per prendersi la mano nel fine settimana, è di cominciare a usare il fine settimana per cucinare nel modo giusto i cereali integrali e quindi saperli cucinare in modo da poter sfruttare al meglio la fibra. Una tazza di acqua, due tazze di acqua, una tazza di riso integrale, mettiamo tutto a bollire e lasciamo che tutta l'acqua venga assorbita. Questo può essere un primo consiglio, un primo passo. Tra l'altro è un metodo di cottura molto comodo, perché fa tutto da solo. Dottor Erzegovesi, noi possiamo sfruttare quindi il potere delle fibre che aiutano anche a gestire il nostro stress. Se dovessimo dare quindi gli ingredienti della dieta che riduce lo stress, quali sono? Fibre solubili, polifenoli antiossidanti, tutta la componente delle vitamine del gruppo B, tutta la componente dei sali minerali calcio, magnesio, zinco, in generale dando una traduzione che poi non è un caso, è esattamente la traduzione alimentare della dieta mediterranea a base vegetale, diventa interessante cominciare a pensare che così come può aiutare a farci stare bene da un punto di vista della salute fisica, nello stesso modo ci fa campare a lungo e soprattutto con un cervello che funziona bene, quindi non solo stress, certo, ansia e depressione, ma ricordiamoci concentrazione, attenzione e lucidità, che sono cose di cui abbiamo bisogno. Mi piace, dottor Erzegovesi, io l'aspetto ancora lunedì, perché non è importante solo quello che mangiamo, ma quando lo mangiamo. Intanto voi allenatevi e poi sugli orari torniamo lunedì insieme al nostro medicuoco quasi cuoco. Ringrazio Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, in assistenza Miriam Lucchetti, in redazione Laura Vanossi. Vi invito ad andare sulla pagina di Obiettivo Salute, in cui trovate i nostri vero e falso in collaborazione con gli esperti della Società Italiana di Malattie Infettive. Allora, noi ci sentiamo domani alle 12, domenica per la bufala in tavola e poi lunedì alle 10.30 nuovamente. Mi raccomando, restiamo in contatto con la nostra pagina Facebook. Buona giornata.